25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, e buon pomeriggio a tutte e tutti che ci seguite da casa. Oggi straordinariamente Radio Fujiko ci ha aperto le sue porte per questa diretta femminista che teniamo in varie compagnie di non una di meno, che ci torneremo durante queste tre ore. Ora siamo in studio io, Francesca e Alina. Ciao a tutte e tutti. E questa diretta è una alternativa allo sciopero che ci siamo trovate a mettere in atto per far fronte all'emergenza sanitaria determinata da Covid-19 che ci sta coinvolgendo tutte e tutti. Ci sarebbe dovuto essere lo sciopero di due giorni, l'8 e il 9 marzo, con non una di meno un movimento femminista globale. Lo sciopero sta avvenendo in tutto il mondo e noi siamo qua per raccontarvelo, e questo è il nostro sciopero virtuale. Se non possiamo essere nelle piazze, saremo in questa piazza virtuale e in tutte le vostre case. Sì, infatti quest'anno nella scorsa settimana, ma già da 10 giorni, abbiamo dovuto in qualche modo immaginare nuove forme di sciopero, non potendo scendere in piazza. Abbiamo scelto di non poter scendere in piazza, tant'è che ieri, solamente come accenno, abbiamo messo in pratica altre forme. Per esempio alle 16 c'è stato un urlo collettivo o segni di qualsiasi tipo dalle finestre, per anche visibilizzare quello che è il lavoro domestico e il lavoro di cura, che non ha mai, diciamo, uno stop indipendentemente dal giorno della settimana. E poi abbiamo lanciato, diciamo, l'iniziativa di indossare qualcosa di fucsia. Infatti io e Francesca oggi siamo tutte fucsia, ma anche ieri ci sono arrivati un sacco di contributi da tantissime persone per visibilizzare la protesta femminista. Sì, sono stati davvero tantissimo i contributi da casa, e questa occasione ci ha anche permesso di pensare a una visibilizzazione di una forma di sciopero che, come diceva Lina, difficilmente viene visibilizzata e che come movimento femminista invece da sempre mettiamo al centro. Lanciamo quindi subito un pezzo musicale, ci scuserete per la nostra imbranataggine ma non siamo professioniste. Lanciamo quindi Rebel Girls di Bikini Kill. Yeah. questa era Rebel Girls delle Bikini Kill. Naturalmente iniziamo subito molto cariche, definendo subito quanto siamo ribelli. Ma iniziamo anche raccontando l'inizio di Non Una Di Meno, che appunto nasce in Argentina nel 2015 dopo l'efferato femminicidio, l'ultimo di una lunga serie di Lucía Pérez, che ha portato una marea di donne in piazza a protestare, a incrociare le braccia per la prima volta. Le strade dell'Argentina furono letteralmente invase da delle donne che dichiaravano basta, non una di meno, non possiamo più essere una in meno, e questo grido ha attraversato l'intero mondo tantissimi sono stati poi i focolai di lotta e poi mobilitazioni enormi femministe che stanno attraversando l'intero mondo. E anche oggi, infatti, in tantissimi posti nel mondo si sta scioperando. Ieri già le piazze erano piene, avremo poi modo di raccontarvi con contributi da tutto il mondo, ma oggi in Argentina, in Cile e in tantissimi altri posti si sta scioperando il 9 marzo con uno sciopero che è stato lanciato con una call transnazionale frutto di una collaborazione di tutti i paesi. E in Argentina appunto oggi si sciopera, oggi le donne fermano il mondo. E in Argentina oggi si sciopera, però è notizia di recente, diciamo, per la seconda volta arriva una proposta di legge per rendere l'aborto legale. Infatti, se nel 2015 ha preso inizio quello che è stato Non Una Di Meno, bisogna comunque pensare che già prima c'era una mobilitazione femminista molto forte, una mobilitazione femminista che conta circa 33 anni di assemblee nazionali di donne che diciamo animano il paese, animano la lotta politica femminista, e soprattutto la campagna nazionale Por el Derecho al Aborto ha circa 15 anni ed è articolata da tantissime realtà, sindacati, partiti, ma anche collettivi. Quindi diciamo, quello che è scoppiato in Argentina, le maree che vediamo in Argentina, in realtà hanno una storia e una genealogia molto forte. Però anziché raccontarvi noi ancora rispetto all'Argentina, ascoltiamo subito un contributo di una compagna, Irupe Tentorio, da Buenos Aires. Mi nome è Irupe Tentorio, sono periodista di un medio nazionale grafico che si chiama Pagina 12. Il mio nome è Rupe Tentorio, sono una giornalista di Pagina 12, un mezzo di informazione nazionale e di un supplemento femminista, Le 12. Qui in Argentina, l'8 marzo, si fa un pagnolasso per continuare a chiedere e reclamare la legalizzazione dell'aborto sicuro e gratuito di fronte alla cattedrale di Buenos Aires, a mezzogiorno, quando c'è la messa domenicale. Poi un gruppo di femministe, convocate da Nuna di Meno, esce ad attacchinare poster e cartelli nei quartieri per convocare lo sciopero femminista, fatto da me, da noi, da tutte le compagne. Ci sono state assemblee durante tutto il mese di febbraio per organizzare questa manifestazione e questo sciopero che sono internazionali. Domani c'è il corteo. Durante tutta la giornata ci saranno attività. Il corteo è alle 17, inizia a Plaza de Mayo, dove c'è la sede del governo, e poi ci dirigiamo verso il Congresso della Nazione, chiedendo aborto legale, sicuro, gratuito. Chiediamo anche di non indebitarci con il Fondo Monetario Internazionale, perché il nostro paese è in deficit e il debito ricade soprattutto sulle spalle delle donne più vulnerabili. Chiediamo educazione sessuale per tutte le scuole, chiediamo equità, chiediamo inclusione, chiediamo visibilità per le diversità sessuali e basta ucciderci. Da quando è iniziato l'anno ci sono stati, solo a gennaio, 67 femminicidi, 63 femminicidi a febbraio. La Fiscalia di Violenza Familiare ieri ha annunciato che da gennaio ad oggi ha raccolto 3.000 denunce di genere. Nel 2019 ci sono stati 290 femminicidi. I femminicidi in Argentina aumentano, aumentano ogni giorno. Un abbraccio, compagne. Los femicidios en Argentina aumenta cada día más. Un abrazo, compañeras. E questo era il Rupe Tentorio da Buenos Aires. Molti contributi di oggi sono stati recuperati dalle manifestazioni di ieri, anche perché dobbiamo far conto con il fuso. E Irupe, che parlava di una violenza patriarcale, ma una violenza patriarcale che non una di meno ha definito strutturale. Questo che cosa vuol dire? Cioè, la nostra critica non ha solamente a che fare con una violenza prettamente fisica, però nel momento in cui denunciamo una violenza patriarcale che è insita nel sistema, diciamo che non vogliamo più violenza economica, siamo contro, diciamo, la disparità salariale, ma anche vogliamo un welfare universale. Quindi diciamo che è più un'ottica attraverso la quale guardare la società, e questo dall'Argentina al Cile dimostra la grandezza della marea femminista. Sì, questa appunto analisi viene fatta ormai in tutto il mondo, possiamo dire, e infatti il frutto è anche questa call transnazionale. Da sempre lo sciopero femminista dell'8 marzo è uno sciopero transnazionale, ma quest'anno c'è stato un coordinamento ulteriore, come dicevo anche prima, che ha portato appunto a questa call, che è stata tradotta in tantissime lingue, dal cinese all'inglese al francese allo spagnolo, in tantissimi posti del mondo. Quindi è stata firmata ed è girata, ed è una call che dichiara appunto un'unità della lotta femminista all'interno della sua diversità, perché è un movimento non una di meno anche che pone al centro anche la diversità delle situazioni, e la potenza chiaramente che può avere uno sciopero transnazionale è quella che oggi più che mai noi sentiamo addosso. Guardando le foto, le fotografie, i video delle piazze in tutto il mondo, non possiamo che commuoverci, non possiamo che gridare di gioia e sentircene parte, nonostante appunto la nostra assenza dalla piazza fisicamente oggi. Con queste parole vi lasciamo a un altro pezzo musicale che è Ni Una Menos di Rebecca Lane, che parla appunto di Ni Una Menos, non una di meno. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. cuéntanos bien. En las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos. No tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Eccoci negli studi di Radio Città Fujiko. Appunto in tutto il mondo si sciopera e qua no. E perché abbiamo deciso di non scioperare oggi? Abbiamo preso questa decisione perché in realtà il nostro movimento parte dalle condizioni materiali delle vite delle persone. E il nostro movimento è fatto da donne e da persone che appunto non sono soltanto le attiviste che tutte le settimane si trovano alle assemblee, ma sono donne e persone che vivono una vita di tutti i giorni con i problemi di tutti i giorni e problemi che sono stati estremamente aggravati dalla situazione di emergenza sanitaria determinata da Covid-19. Sì, infatti diciamo che in questa condizione sono venute un po' meno quelle che sono poi le condizioni dello sciopero stesso. Diciamo che seguendo questo ragionamento abbiamo deciso ancora prima che la commissione di garanzia intimasse la revoca dello sciopero, che poi di fatto è stato revocato, pensando a chi sono i soggetti che scendono in piazza: donne, soggettività trans, LGBTQ, ma non solo, abbiamo scelto di non chiamare la piazza, non chiamare la piazza perché quella che viviamo è una questione collettiva più che altro. E quindi quando diciamo che sono venute meno le condizioni, significa esattamente che nel momento in cui parliamo di sciopero femminista, uno sciopero femminista che si distacca da quello che è il semplice sciopero sindacale, semplice perché in realtà non per ridurre lo sciopero sindacale stesso, ma semplicemente per evidenziare quella che è la caratteristica dello sciopero femminista, ovvero quella di connettere ciò che riconosciamo come lavoro, quindi il lavoro nelle fabbriche, il lavoro nelle scuole, quel lavoro salariato e spesso contrattualizzato, magari male, però di fatto spesso c'è un contratto, ma lo sciopero femminista ci permette di riconoscere anche quel lavoro che non è chiamato tale, che è soprattutto che il lavoro che si svolge nelle case, il lavoro di riproduzione, un lavoro precario anche, che invece non è contrattualizzato. E in questo senso quindi la nostra decisione partiva appunto da una constatazione delle difficoltà che le persone in questi giorni vivono, difficoltà che in realtà, ripetiamo, noi troviamo siano appunto nella normalità della vita. Questa situazione emergenziale in realtà sta aggravando, ma sottolineando soprattutto delle condizioni che da sempre vigono all'interno della nostra società e dei rapporti che da sempre sono presenti. E infatti questa situazione ricade totalmente su donne precari, lavoratori con contratti deboli, che vengono lasciati a casa, ma non soltanto. Che questo implica anche però una perdita del salario, che poi nel momento in cui ci fosse stata la copertura sindacale c'è effettivamente, ma per scelta, una perdita di salario, ma nel momento in cui già le persone stanno perdendo pezzi appunto di stipendi, e dall'altra parte invece si crea proprio quella che è la necessità della cura, cioè delle esistenze che dipendono dal tuo lavoro. Sì, infatti tantissime ci hanno scritto dalle varie pagine, di non una di meno, per segnalarci appunto che sarebbero volute essere in piazza, ma che non potevano perché avevano familiari deboli, avevano figli a carico, e quindi insomma tutte quelle situazioni che noi tra l'altro appunto visibilizziamo nelle piazze con Spazio B Imbu e altre forme di attenzione, in questi due giorni non sarebbero state attuabili perché il lavoro di cura e economico era sproporzionato. Ma soprattutto perché chiamare una piazza in questo momento sarebbe stato escludente, per tutte quelle persone che vivono in prima persona il rischio di contagio, a partire da noi stesse. Però ci sono più persone che sono più esposte, dato che la nostra piazza è una piazza che vuole essere una piazza di tutte e tutto, non sarebbe stata accessibile, e quindi noi vogliamo invece dare proprio, vogliamo essere assolutamente la voce di tutte quelle persone che non sarebbero scese in piazza. Abbiamo ricevuto, come diceva Francesca prima, tanti messaggi sia di racconto proprio della propria esperienza, condizionata dalle ordinanze dovute all'emergenza sanitaria, che vi faremo ascoltare poi nel corso della trasmissione. E insieme a questi anche tanti contributi da parte di persone e realtà che invece avrebbero scioperato, ma nella situazione complessiva cerchiamo, attraverso queste 3 ore di diretta, di dar voce esattamente alle lavoratrici e ai lavoratori. E a questa complessità tutta. Però in questi giorni vediamo pure come si affaticano analisi e narrazioni che sono anche escludenti, e diciamolo pure, maschili, perché le narrazioni di questi giorni rigettano dei pericoli rispetto a delle persone immunodepresse, come se fosse sempre qualcosa al di là di noi, come se non ci riguardasse, oppure pensiamo ad altre analisi che invece vedono in questo stato di emergenza una sorta di controllo. Ma quello che ci interessa sia far notare è come queste narrazioni egemoniche fanno lo sforzo di leggere esattamente sotto la stessa lente fatti che poi sono diversi, e soprattutto nel momento in cui l'emergenza effettivamente esiste, e appunto esistono persone che da questa sono colpite. In questo senso, appunto, abbiamo trovato delle modalità alternative, come diceva prima Lina. Speriamo che tantissimi di voi siano in casa o al lavoro con qualcosa di fucsia addosso, abbiano lasciato il loro messaggio alla nostra pagina Facebook, e anzi vi invitiamo a continuare a condividerli, e ci abbiano mandato una foto o abbiano preso parte alla casserolata delle 4 di ieri, facendo tutto il casino possibile per far sentire la propria voce dalle nostre case, dai nostri posti, da quei posti che spesso appunto sono resi invisibili. E attraverso queste pratiche vogliamo anche risignificare, ma non solo, vogliamo anche risignificare quella che è la cura. Una cura che di solito viene vista come nostro compito naturale in quanto donne. Invece la cura femminista è qualcosa di diverso, che diciamo è una conseguenza diretta rispetto alla nostra scelta di non chiamare una piazza, proprio perché sia nelle analisi di cui parlavamo prima, sia rispetto all'applicazione delle ordinanze stesse, nessuna attenzione è stata posta sulla materialità delle vite di lavoratrici e lavoratori. Infatti, dopo un breve stacco musicale e la pubblicità, vi faremo ascoltare uno dei contributi più interessanti che si discostano e fanno dal discorso dominante, e mostrano un altro punto di vista che però a cui vogliamo dare visibilità e ascolto attraverso questi canali. La fretta del cuore già una novità, che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa casa. carretera di questa vita balera. Ma da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe seguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a plana ricordati qui per non saper volare, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi Radio Città Fujiko, 103.1 FM. E rientriamo negli studi di Radio Città Fujiko. Adesso vi faremo ascoltare uno dei contributi di cui parlavamo prima, un'analisi diversa, perché appunto abbiamo dato un nuovo significato, abbiamo anche dimostrato a livello nazionale come non una di meno ha cambiato la prospettiva, non solo non per sottolineare un uso strumentale di decreti da parte dello Stato, ma adottare la prospettiva delle persone rompendo un po' quella che era la narrazione. Quindi adesso mi taccio e do la parola. Cosa invece difficilissima per Alina. Dipende in quali condizioni. In radio mi taccio. E diamo la parola a Chiara Bersani, che ha scritto un articolo, Body Count, che trovate su Passionaria, ve lo consiglio caldamente. Chiara Bersani, che è una danzatrice, tra l'altro anche vincitrice del premio UBU di qualche anno fa, e lascio la parola a lei, che vi racconterà molto meglio di me quella che è la narrazione egemone. Guarda, quell'articolo è stato scritto in realtà una sera prima di partire, nel senso che io stavo cercando di capire se sarei riuscita a partire per andare a fare una residenza creativa che poi sarebbe sfociata nel debutto del nuovo lavoro, e non sapevo se sarebbe saltato tutto o no. Ero in attesa che mi comunicassero sia se dove abitavo io era zona rossa, sia se dove dovevo andare a lavorare mi avrebbero voluto oppure no, perché c'era una grande incertezza. E in quel momento ero a casa e a mio compagno e a mio marito, che è immunodepresso, e quindi eravamo insieme così a domandarci come avremmo gestito le giornate, insomma a cercare di capire cosa sarebbe accaduto, e abbiamo iniziato a parlare, e a un certo punto parlando io ho scoperto di essere arrabbiatissima, molto arrabbiata per come già all'inizio, perché lì quando ho scritto l'articolo eravamo, ovviamente quando l'ho scritto, quando è stato pubblicato sono passati un po' di giorni, ma quando l'ho scritto eravamo veramente alla prima ondata, insomma alle prime restrizioni, e da subito si raccontava di questa malattia che avrebbe colpito probabilmente tutti, ma che solo per alcuni era molto pericolosa, e quindi che sì, gli altri come un gesto di gentilezza nei nostri confronti dovevano recuperarsi, però anche potevano stare tranquilli perché le vere le vittime saranno stati sempre noi, i fragili, gli anziani. E tra l'altro sempre utilizzando questo termine fragili ampissimo, senza mai dire cosa si intende per fragili, perché se ti metti di che cosa si intende per fragili capisci che è davvero gente che è vicino, e è davvero tanta gente, perché per fragili intendono non solo le persone che hanno un handicap dalla nascita come posso essere io, ma appunto anche gli immunodepressi, anche gli oncologici, gli ex oncologici, le persone con patologie respiratorie, e nelle patologie respiratorie c'è anche l'asma. Cioè la fragilità è qualcosa che veramente appartiene al genere umano, con cui però noi europei facciamo finta di non avere nulla a che fare, e quindi per evitare di toccare questa questione si sono creati due gruppi, no? I gruppi dei sani che devono tutelare i fragili, e i gruppi dei fragili che è bene che non facciano niente, stiano lì a casa, anche prima che arrivasse la zona rossa, anche già dall'inizio, stiano lì a casa a morire, a sperare che i sani siano così generosi da tutelarli, insomma. Quindi l'articolo Body Count partiva un po' da questa nottata di rabbia da parte mia, dal vedere che nuovamente tutti mi dicevano che sarei morta io e molte delle persone che appartengono al mio mondo, e soprattutto dal momento che fu subito chiaro anche all'inizio che l'occasione per porti delle domande su che cos'è la fragilità umana, su che cosa siamo noi esseri umani, sul fatto che forse il capitalismo ha costruito un'immagine dell'essere umano un po', come dire, un po' falsata, ecco, una buona occasione per farsi tutte queste domande, da subito si è capito che era stata sprecata, e ho pensato che se qualcuno poteva dirlo ero io, o qualcuno come me, cioè qualcuno che il peso di quelle parole lo sentiva sulla sua pelle. Tu sei una danzatrice e volevo sapere, con la chiusura dei teatri e con l'annullamento dei festival, poi quali conseguenze sta avendo sul tuo lavoro, nel senso che cioè poi c'è tutta una materialità della vita, no? E poi quale sarebbe stato il tuo sciopero femminista? Allora, per rispondere alla prima domanda, probabilmente dovremmo sentirci tra un anno e ti dirò esattamente le conseguenze che ha avuto su di noi. Per adesso, nell'immediato, le conseguenze che sta avendo sul nostro lavoro sono, come per altri lavori, me ne rendo conto, però sono molto pesanti, più che altro perché i lavoratori dello spettacolo non sono tutelati come invece magari altre lavoratrici e altri lavoratori. Per quanto riguarda il nostro sciopero, ovviamente facendo un lavoro indipendente e completamente destrutturato, il mio sciopero è stato ogni anno diverso a seconda di dovere, del momento in cui ero, eccetera. Quest'anno il caso avrebbe voluto che comunque in quelle giornate io non avrei lavorato, perché non avevo date tra ieri e oggi, e quindi sarei andata a Milano in manifestazione e avrei aderito, ovviamente, come aderisco da tutti gli anni da quando c'è lo sciopero, sospendendo tutta una serie di lavori di cura, di lavori domestici, impegnandomi anche per quello che possono servire i social, che sappiamo è relativo, però impegnandomi anche a provare a condividere determinati contenuti piuttosto che altri e a dichiarare la mia posizione. Ed eccoci tornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko nella nostra piazza virtuale per questo sciopero inedito, uno sciopero dell'8 e 9 marzo che continua prepotente in tutto il mondo, andando a invadere piazze in tutti i paesi del mondo, e infatti abbiamo un contributo dalla Francia. Con una compagna della Transnational Social Strike Platform che si trova a Parigi e che ci racconta com'è andata la manifestazione di ieri. Ci racconterà anche la situazione specifica di alcune donne migranti che vivono in Francia e che stanno scioperando ormai da mesi, un'intervista più completa di questa di questa situazione qua la trovate sul blog del TSS, la Transnational Social Strike Platform, e tradotta in italiano sul blog di Connessioni Precarie. Qui con noi ha sostituito Alina si è materializzata Roberta, altra compagna di non una di meno. Adesso ascoltiamo Matilde. A Parigi sono scese in piazza 60.000 persone, che per questa città sono numeri davvero notevoli, ma ci sono state mobilitazioni anche a Rennes, Lione, Bordeaux, Strasburgo, Marsiglia e Tolosa, che per quanto piccola sembra essere una delle città più rivolte verso il movimento globale delle donne, infatti firmataria dell'appello transnazionale allo sciopero. A Parigi, dicevo, la manifestazione è stata grande, molto partecipata, preceduta da una marche des femmes de nuit il giorno prima, e che però quest'anno è stata decisamente più partecipata, più potente, e che si è conclusa però con una repressione assolutamente gratuita e ingiustificata della polizia all'altezza di Place de la République, dove i CNRS sono intervenuti per mettere all'angolo le donne che stavano marciando e le hanno spinte violentemente dentro la metro, e una di queste è finita in ospedale. E il resto, diciamo, la violenza della polizia esercitata in maniera veramente gratuita è diventata un metodo sistematico per fare paura. Infatti hanno sorpreso relativamente le immagini arrivate dall'8 marzo di Nantes, dove mentre un gruppo di donne stava facendo la performance di un violatore in tuo cammino, hanno iniziato a lanciare lacrimogeni. La manifestazione di Parigi invece ha potuto svolgersi ieri senza grossi intoppi da parte della polizia, ed è stato veramente un bellissimo corteo, variegato, potente, molto partecipato e con immediati richiami al movimento globale, non solo perché ovunque si sentivano i cori delle donne che cantavano solidarité aux femmes du monde entier, ma perché la partecipazione era veramente, diciamo, globale. C'erano le curde, c'erano le donne dell'America Latina, c'erano le donne migranti, e gli appelli stessi, molti degli appelli stessi cominciavano con siamo le donne del mondo intero. Lo sciopero è stato parzialmente sostenuto molto poco sostenuto dai sindacati, a parte anche perché era domenica. Il corteo è stato aperto dalle Grand Gagnantes, che sarebbe un'inversione delle Grand Perdants, che sono le grandi perdenti della riforma delle pensioni. Evidentemente le donne, in quanto le soggetti più precari, appunto più precarizzate al lavoro, sono quelle che con maggiori difficoltà riescono a ottenere i punti necessari per avere una pensione decente, sono quindi quelle che più hanno da perdere dalla riforma delle pensioni di Macron, contro la quale ci sono stati scioperi da dicembre fino a marzo. In realtà non si sono ancora concluse le mobilitazioni. Appunto le donne hanno però deciso di presentarsi come le Grand Gagnantes, le vittoriose, perché vittoriosa sarà la nostra mobilitazione, più in generale contro la violenza patriarcale. Il collettivo che ha aperto il corteo era appunto il collettivo Rosy, che sono donne che hanno aperto molti delle giornate di sciopero generale a Parigi, con una performance divenuta ormai celebre in Francia, A cause de Macron, con la quale appunto davano voce a infermiere, lavoratrici delle polizie, cassiere, insegnanti, ferroviere, che appunto hanno alzato la testa in questi mesi contro la riforma delle pensioni. Al corteo però c'erano anche le donne di Ibis, donne migranti, anche se ormai regolarizzate, che da 8 mesi sono in sciopero contro il gruppo Troupe au Corps, che gestisce gli hotel di Ibis a Parigi, che protestano contro il sistema di sfruttamento prodotto dal sistema di subappalto, che le costringe senza alcuna tutela a orari assurdi, ritmi infernali di lavoro, ore straordinarie non pagate, nonché violenze sul luogo di lavoro. C'erano migranti federati dalla CGT che chiedevano e papier, quindi case e documenti per proteggere le donne dalle violenze, donne migranti dalla violenza e dalla precarietà. Teo ieri si è concluso a Place de la République con la performance Il Violador in tu cammino, richiamando anche in questo caso appunto un movimento veramente globale e una performance che ha unito le donne di tutto il mondo nel loro rifiuto contro la violenza patriarcale. Sì, ecco, il racconto di Matilde ci rimanda, soprattutto quando fa riferimento alle violenze della polizia francese, a quelli che sono stati qui in Italia i decreti sicurezza, che insomma negli ultimi tempi hanno limitato non poco le manifestazioni, tanto di non una di meno, quanto tutti quegli scioperi, quelle lotte che si sono dati nei posti di lavoro e che spesso hanno visto come protagonisti le migranti e i migranti. Infatti i decreti sicurezza hanno sicuramente limitato di molto la possibilità di esprimere il nostro dissenso, ma soprattutto hanno colpito le donne e gli uomini migranti, sia nella loro possibilità di lottare, sia nelle loro vite quotidiane. E su questo vorremmo dire alcune cose, perché ecco, oltre a impedire lo sciopero, questa situazione generata dal coronavirus ha anche portato a, diciamo, da un lato a invisibilizzare una serie di condizioni, mentre dall'altro ha messo in luce il razzismo e le discriminazioni contro cui non una di meno lotta fin dall'inizio. Se pensiamo ad esempio alla situazione nell'accoglienza, di cui in questi giorni in pochissimi hanno parlato, come stanno vivendo le donne migranti e gli uomini migranti nei centri di accoglienza, nelle strutture, nelle case, dove sappiamo le condizioni sono fatiscenti, come stanno lavorando tutte quelle donne migranti che in casa o in posti di lavoro nei grandi centri commerciali, nei grandi centri di distribuzione hanno dovuto continuare a lavorare spesso senza nessun tipo di cautela e di precauzione. Ma soprattutto sappiamo che in questi giorni c'è una situazione di enorme violenza al confine con la Grecia. Ecco, quello che sta succedendo a Lesbo ci interessa particolarmente, perché non una di meno ha messo la questione dei migranti e del razzismo al centro del suo ragionamento fin dal primo sciopero. In un contesto come quello della guerra e dei profughi che stanno cercando di raggiungere l'Europa, le istituzioni europee si stanno dimostrando come un atteggiamento particolarmente ambiguo. Da un lato, in questi giorni abbiamo visto che i diktat dell'austerity possono essere rivisti quando serve soprattutto ai governi a gestire situazioni che non sono prevedibili, che sono difficili da gestire, mentre invece stanno contemporaneamente continuando a mostrare tutto il loro razzismo di fronte a donne e uomini migranti che in questi giorni, in queste ore, stanno lottando per salvare la loro vita e per la loro libertà. Una volta che Libia e Turchia quindi si sono, diciamo, sottratte a quel ruolo di contenimento che serviva tanto a queste istituzioni, noi ci troviamo di fronte a una politica di gestione che prima era venduta come democratica e che invece adesso mostra la sua faccia più brutale, appunto nelle violenze che la polizia greca, ma che le istituzioni europee stanno legittimando al confine. Ecco, in questo senso quello che noi vorremmo dire è che la rivendicazione che non una di meno ha costruito in questi 4 anni di scioperi e di mobilitazioni, cioè quella di un permesso di soggiorno europeo svincolato dal lavoro, dal reddito e dalla famiglia, è ora più che mai l'unica risposta politica che punta a una rottura di queste politiche razziste, e quindi, diciamo, è l'unica a mettere davanti la libertà dei migranti e quella di tutte e di tutti. Ecco, a questo punto non poteva essere più azzeccato la scelta del pezzo di Nina Simone, No Life. E lanciamo questo pezzo. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, hats, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends. Sulle note stupende di Nina Simone lanciamo un contributo che ci è arrivato da Lesbo da parte di Nagean, lavoratrice dell'accoglienza, che ci racconta la situazione di questi giorni. Ascoltiamo la sua voce. Visto che Erdogan aveva aperto i confini, diciamo, i primi due giorni quando ha annunciato questo c'era una grande tempesta, quindi non è stato un flusso, tra virgolette, come loro chiamavano, però sono venuti in un numero molto limitato. Alla fine, in totale, noi abbiamo 500 persone circa che sono venute nuovamente. Tanti di questi sono stati rimandati dalla Guardia Costiera greca, più alcuni di questi sono stati cercati di fermare da proprio locali greci, qui non permettevano nuovi arrivi all'isola. Un altro problema è che c'è stato gli abitanti di Moria, c'è anche il campo, avevano bloccato le strade per impedire ai migranti di entrare al campo. Dopo questo, i nuovi arrivati non avevano un posto dove stare e Grecia ha deciso di non accettare più per un mese le nuove richieste di asilo. Per quello, tutta questa nuova gente arrivata è stata messa in una nave che sta al porto fermo. E ovviamente c'è tanta difficoltà di raggiungerli, sia per aiuto di cibo, ma anche aiuto legale, ma anche aiuto psicologico, dove c'è una donna che ha perso suo figlio mentre arrivavano, ma lei adesso nessuno di noi riesce a raggiungere, se ci in una nave. La situazione è così, e attacchi contro i lavoratori di ONG stanno sempre continuando. Più è stato bruciato due giorni fa un centro di scuola per i migranti, c'è una tensione che continua, ma a parte questo c'è anche un movimento antifascista che sta continuando. Per esempio, a parte tante manifestazioni che stanno continuando e siamo anche noi numerosi, questo senza dubbio, alcuni neonazi tedeschi e austriaci sono arrivati sull'isola, ma dal momento che erano qui sono stati seguiti, picchiati e rimandati. Ma questo veramente è stato che l'isola veramente non accetta il supporto dall'esterno contro i migranti, diciamo. Io penso che in qualche maniera si troverà una via migliore, ma possiamo dire che la destra in questo momento è super organizzata e per un po' continueranno a creare questa tensione. T freedom, I don't meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, they still listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they don't play us on the app. Don't be talking in our sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's my boys, what's up with that? My girls, what's up with that? Freedom, what's up with that? Your power, what's up with that? Guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid. Listen on the system, we're sitting on the stoop, where we get a scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps that are players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get a scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Can we keep up on all that? Can we be doing it? State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ciao a tutti, siamo di nuovo qui in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko e con non una di meno, io sono Joelle, abbiamo cambiato persone che parlano alla radio, non so come si dice. Una nuova composizione. Io sono Lori. Lei è Lori e io sono Joelle, se vi siete confuse, siamo confuse anche noi, va bene. Allora, dicevamo che appunto siamo, vi ricordiamo per chi si fosse collegata adesso, che stiamo facendo questa diretta radio che continuerà fino alle ore 18:00. Il motivo di questa trasmissione appunto è che oggi abbiamo scelto di annullare lo sciopero per avere cura di tutte noi, diciamo. Esattamente. E adesso invece riprendiamo con un nuovo argomento e ci inoltriamo nel magnifico e meraviglioso mondo della scuola, che in questo momento sono chiuse. Sì, tutti i bimbi, bimbu e bimbe sono felicemente a casa per la gioia di tutte le mamme. E ragazzi, ragazze, ragazzo, sono felice che sei d'accordo con me, Lori. E quindi vi mandiamo una magnifica intervista che abbiamo fatto a Francesca della Rete Bessa, che è una rete appunto di insegnanti, e ascoltate quello che le abbiamo chiesto. Allora, ciao a tutti, io sono Francesca e faccio parte della Rete Bessa e come insegnante diciamo che in questo momento personalmente sto vivendo una situazione di privilegio perché sono una docente di ruolo alla scuola dell'infanzia e quindi non sto subendo, ho diciamo tutta una serie di diritti garantiti. Questo però appunto non mi rende meno consapevole anche facendo parte della rete di tutte le difficoltà degli educatori e dei precari che invece devono subire dei tagli agli stipendi in questo momento o subire anche delle casse integrazioni forzate. Quello che noi denunciamo è il fatto che appunto al di là di questa emergenza e anche alla luce di questa emergenza quello che si vede appunto che è una scuola che è stata derubata da anni e anni di tagli di soldi, tagli di ore e anche tagli di contenuti, per cui è una scuola nella quale tutto deve essere fatto più in fretta e male ovviamente, quindi questo in questo senso si sono evidenziate le carenze, in questo caso anche le carenze della pulizia e delle minime diciamo oggetti diciamo necessari per la pulizia, ma noi sappiamo che tutto questo deriva dal fatto che sono stati tagli appunto di ore, di soldi e di contenuti. Ti chiedo anche, al di là di questa situazione appunto, ci sono anche altre cose per le quali oggi avreste scioperato se ci fosse stato lo sciopero? Sì, assolutamente, infatti si collega proprio al discorso dei contenuti. Diciamo che la scuola in cui siamo adesso è una scuola all'interno della quale è impossibile fare dei progetti, per esempio, che vadano contro il sessismo e il razzismo all'interno delle scuole. Quindi i progetti che si riferiscono al genere o alla sessualità vengono costantemente o censurati o modificati proprio nella loro essenza e quindi noi oggi avremo scioperato per chiedere, per urlare a gran voce la nostra necessità invece, la nostra intenzione di continuare a fare i progetti contro le discriminazioni sessiste all'interno delle scuole e contro il razzismo. Ma chi è che vi impedisce di fare questo o che insomma cerca di mettervi i bastoni fra le ruote? Allora, il sistema scolastico funziona in modo tale che è facile diciamo impedire di fare dei progetti. Per esempio all'interno della mia scuola la funzione strumentale del PTOF fa parte dei ProLife e quindi ha dato un taglio a tutti i progetti per cercare di escludere qualsiasi progetto che vada contro diciamo la sua idea. Quindi noi comunque ci ritroviamo a subire un atteggiamento generale nella scuola tra le istituzioni proprio scolastiche, quindi le varie funzioni strumentali e anche viviamo in un momento in cui proprio culturalmente questi argomenti vengono censurati. Anche perché ci sono gruppi no gender e reti internazionali anche che si stanno attivando appunto per entrare all'interno dei ministeri. them all by the balls, causing waterfalls, stone walls, bar brawls, climbing stalls at concert halls. To you they crawl, body sprawl, sloping palm walls, close calls, stand tall, doll, you make them feel so small. And they love it! Yes, I do. The way you rock non-stop, girl, you got the chops. Flip-flop, she bops, self-taught. Your licks are hot. Her lyrics heave, kids receive. Crawling up the sleeve, parents peeve. Can't conceive that her deed will never leave. And we love it. Ok, siamo di nuovo qui. Questa era Boys Wanna Be Here dei Peaches. Di Peaches. Scusa, Peaches. Questa canzone mi piace sempre. La cantiamo un po', Lori? Dai, no, cantala con me. Forse non me la sento. No, comunque, non se la sente. Niente, ritornando all'argomento sulla scuola e le insegnanti, abbiamo sentito l'intervista alla rete Bessa, però... io vorrei saperne ancora un po' di più, Joelle. Vuoi sapere di più, Lori? Sì, grazie. Dovremmo fare questa cosa tutti i giorni. Allora, sì, continuiamo a parlare, cioè approfondiamo un pochettino questa cosa, perché è un argomento del quale ci siamo molto occupate, come non una di meno, ma in ogni caso che è importante da tenere presente il fatto che esiste una rete internazionale nata negli anni 90, una rete, diciamo, che viene comunemente chiamata No Gender, che sostanzialmente fa riferimento a gruppi cattofascisti di estrema destra, e molto legati, inizialmente molto legati anche alla Chiesa del Vaticano, che poi piano piano hanno anche cambiato strategia e sono diventati un po' più subdoli, diciamo così. In Italia ovviamente fa riferimento al movimento Pro Vita, e quindi questa rete, diciamo, quello che vuole è impedire che nelle scuole si parli appunto di educazione di genere, si parli di femminismo, si parli, hanno paura che appunto parlare di queste cose possa mettere in pericolo la famiglia tradizionale, ed è ciò che proprio queste cose vogliono fare, quindi hanno ragione in qualche modo. E quindi niente, appunto, volevo soltanto ricordare che in Italia, cioè l'associazione, diciamo, più grossa dietro a tutto questo si chiama Citizen Go, e anche qui nella nostra zona, qui a Bologna, un annetto fa mi pare, hanno creato una lista delle scuole, bollandole con appunto con mettendo dei bollini rossi per tutte quelle scuole che hanno attuato dei progetti di ma anche semplicemente di lotta contro il bullismo, perché secondo loro possono nascondere appunto educazione alle differenze, diciamo così. E ricordiamo che contro la minaccia del gender, l'anno scorso a Verona si è ritrovato il World Congress of Family, e non una di meno ha partecipato e ha... Non abbiamo partecipato al World Congress of Families. No. Ha creato una meravigliosa manifestazione di 150.000 persone contestando appunto questo tipo di fascismo e educazione che vuole tornare, cioè vuole relegare comunque sia i ruoli di donne e uomini all'interno della famiglia, comunque come nucleo dove sappiamo che si svolgono e avvengono la maggior parte delle violenze. Brutta roba la famiglia, sì, concordo. Decisamente. Bene, quindi adesso invece passiamo a parlare di un nuovissimo argomento. Tornando al transnazionale, faremo questi piccoli salterelli spazio-temporali. Aspetta, ci siamo dimenticati una cosa, che la voglio dire questa cosa. Ce la siamo dimenticata, ma io la voglio dire. Voglio ricordare a tutti che questi gruppi no gender sono gli stessi poi anche che non vogliono la libertà d'aborto, non vogliono l'autodeterminazione femminile sui propri corpi, e quindi insomma vogliono tante cose brutte, anche questa. Bene, l'ho detto. Grazie. Prego. Adesso passiamo al Cile. Allora, niente, appunto, facendo un piccolo salto di spazio, come dicevamo prima, l'idea è quella di mantenere un po' le piazze unite. E in Cile ieri c'è stata una manifestazione che non ha precedenti nella storia del Cile, appunto, in cui più di 2 milioni di persone si sono mosse in corteo, donne, bambine, ragazze, nonne di tutti, cioè un corteo enorme che non si riusciva neanche a muoversi per la città da quanto era piena di persone. Abbiamo visto tutte le foto su Facebook, super, le abbiamo condivise emozionanti, tutte. I lacrimoni, sì, e adesso possiamo sentire il contributo da parte delle compagne cilene. Vai. E oggi 8 marzo, domani 9 marzo è stato convocato sciopero generale di tutte le donne, quindi vabbè, oggi è domenica, però domani non si va al lavoro e si torna a marciare per dar vita un po' a quello che è stata la marcia più grande femminista che il Cile abbia mai visto, probabilmente in generale, perché si dice che le prime stime sono di più o meno 1 milione di ragazze, donne, bambine, quindi insomma è stata molto imponente. Diciamo che tutte ce lo aspettavamo che sarebbe stata così, sarebbe andata così, forse non a questo livello, però si sapeva che sarebbe stato un momento molto intenso, molto forte, perché comunque si vedeva venire per un'urgenza esplosiva di tutte le donne qua in Cile che non ce la fanno assolutamente più a sopportare il modello neoliberale patriarcale che c'è qua, che è una cosa veramente che ha esacerbato tutte, ed è quello che ha un po' spinto anche all'esplosione della rivoluzione in ottobre. Quindi niente, si vedeva venire. Tra l'altro l'8 marzo dell'anno scorso pure è stata una marcia molto forte, che è stata una delle marce che tra l'altro hanno dato un po' inizio a questa mobilitazione sociale che ha poi portato alla rivoluzione d'ottobre. Oltretutto, quando è iniziata la rivoluzione è iniziata perché moltissime studentesse, in particolar modo oltre che a studenti di liceo, hanno iniziato a evadere i tornelli della metro. Diciamo che la rivoluzione che c'è stata negli ultimi 5 mesi qua in Cile è sempre stata molto improntata anche sulle tematiche femministe, tanto che una delle frasi emblematiche di questa rivoluzione è: la rivoluzione sarà femminista o non sarà. Oltretutto c'è stato a gennaio il secondo incontro transnazionale latinoamericano femminista qua a Santiago, cioè quest'anno Santiago è stato un po' centro dell'attenzione da molti punti di vista, e oltretutto la concausa finale è che il Presidente della Repubblica che c'è qua, a parte essere colui che ha causato, diciamo, tutte le morti e tutte le violenze che ci sono state a causa della polizia, la settimana scorsa se ne è venuto fuori con la frase pubblicamente, cioè in un discorso pubblico, ha detto che lo Stato si impegna a difendere le donne dagli abusi, diciamo, che però non è solamente la posizione dell'abusatore, del violentatore, se no allo stesso momento è la posizione della donna a farsi abusare. E quindi ovviamente una frase del genere, che fa venire i brividi, ha fatto inasprire a dir poco ancora di più i termini oggi, nel senso che già veniva forte la protesta, dopo una frase del genere vi lascio alle foto, insomma, di quello che è successo. È stata una marcia per lo più pacifica, anche se ovviamente è stata pacifica grazie ai ragazzi e le ragazze della prima linea che hanno mantenuto a bada la polizia, che ovviamente ci dà con tutta la violenza che può, come da 5 mesi a questa parte. Arriva la Skelluchen. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ok, siamo ritornate, siamo di nuovo noi, siete felici? Questo è il mio lavoro, raga, io questo devo fare. Allora, sto scherzando. Abbiamo fatto questa coppia solo per dire il nome di Joël in diretta. Joël, si pronuncia così. Vabbè, questa cosa è per... Basta! Allora, adesso passiamo a parlare, invece entriamo nell'attualità. Mi dispiace che non vediate il mio gesto, perché entriamo nell'attualità. Sì, sentitevi partecipi, tutte e tutti. E tutto. E parliamo proprio di Covid-19, proprio lui o lei. Non lo so che... Vabbè, smettiamola, per favore. Abbiamo capito, stiamo facendo un altro programma, io e te, Lori. Allora, entriamo nell'argomento di questo momento, il Covid-19, perché voi non lo sapete, ma qui a fianco a me c'è proprio una medica che ora ci parlerà un po' del sistema sanitario nazionale, di quello che sta venendo fuori appunto in questo momento di crisi. Ve la presento, lei è Lori ed è... E sono sempre io. Ed è sempre lei, quindi... Ma cambierò improvvisamente veste. Bene. Allora sì, mi è stato affidato questo duro compito di parlare della situazione sanitaria, che al momento è davvero complessa ed è frutto comunque di... c'è al di là dell'emergenza del virus e dell'epidemia che è insorta qualche mese fa in Cina e poi si è spostata qui in Europa. Diciamo che l'emergenza che adesso ci troviamo ad affrontare è una cosa che risale ad anni e anni di smantellamento del sistema sanitario e pubblico, che ha visto sempre meno finanziamenti, meno assunzioni, la mancanza di personale, le risorse sono la cosa che comunque diciamo è quotidiana, ma che il virus sta svelando cioè molto potentemente. Infatti in questo momento nelle zone rosse i turni di lavoro sono massacranti, i reparti sono pieni di pazienti che hanno bisogno giustamente di cure emergenziali e però che il sistema pubblico fa fatica a sostenere. Per questo sono, diciamo, state messe in campo queste misure di contenimento dell'epidemia che sembrano molto, cioè sono molto in qualche modo sono ragionevoli, ma al tempo stesso sono diciamo anche cioè limitano la libertà comunque di muoversi, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso gli esercizi commerciali nei weekend nelle zone rosse, insomma comunque è un investimento di energie e risorse notevoli e il carico comunque di lavoro ricade, cioè che viene a interrompersi o che non può interrompersi, ricade su determinate categorie sociali. Al tempo stesso, oltre agli ospedali, anche sul territorio, che è il posto dove si può svolgere la prevenzione e la maggior, diciamo, azione di informazione per informare i cittadini e le cittadine su quello che sta accadendo e su come comportarsi, cioè è veramente difficile perché i medici di base sono sovraccarichi di pazienti e anche i pazienti anziani, fragili, complessi, che hanno bisogno di cure domiciliari vengono trascurate perché ovviamente c'è un sovraccarico. C'è un sovraccarico. E in tutta questa situazione le proposte di regionalizzazione immagino che prendano anche un contorno nuovo, diciamo. Sì, assolutamente. Più chiaro. Cioè si denota comunque come ci siano delle differenze di distribuzione di ricchezza tra nord e sud e questo regionalizzando il sistema sanitario aggrava la situazione poi delle disuguaglianze e non solo, ma anche all'interno delle stesse regioni, cioè le disuguaglianze sociali hanno un peso importante nel determinare poi la salute o la malattia delle persone, perché comunque le reti sociali, relazionali, cioè pensiamo a chi ha bisogno di cure o cioè in generale anche solo andare a fare la spesa, a chi manca il reddito, chi non ha una casa, cioè comunque sono tutte determinanti sociali che incidono sulla costruzione della malattia di una persona. Certo, va bene, grazie Lori, puoi restare qui con noi e mandiamo musica meglio. Donde manda capitán. Muere marinero, todos saben bien que es por dinero. A un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, mamá, pasa. Asado, de paso, como soleado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha, y a un asado le paso, como soleado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha. ¿Qué querés? Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? ¿Cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, fuck, no quiero la más policía. La asado, de paso, como soldado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, me paso, como soleado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para allá. Siamo un mese dal quarto sciopero transfemminista globale. E c'è una cosa che proprio non riusciamo a capire. Perché in Italia alcune strutture non scioperano? Volete sapere quali? Fiam! CGL! Ed eccoci di nuovo qui. Qui. Allora, avete sentito il nostro gioco a jouer sullo sciopero? Era molto bellissimo. Sì, c'è anche un balletto che vi insegneremo a un certo punto. Quando peccato potremo... che non potete vederci, noi lo stiamo facendo, cioè l'abbiamo fatto prima questo balletto. Allora, lo sciopero è centrale, è la pratica centrale di una di meno, ed è, sarebbe stato il quarto anno consecutivo di sciopero, cioè in cui anche noi in Italia avremmo scioperato se solo non fossimo circondate da dei virus che stanno sconvolgendo la nostra quotidianità. Nel mentre Lori si agita sulla sedia e va avanti e indietro con le rotelle, quindi stai ferma Lori, vai. E niente. Scusa, vi do anche queste note di colore un po', perché così vi sentite un po' più qui con noi. Più a casa. Non so se ne avete voglia, forse siete contente di non esserci, ma appunto, torniamo a parlare dello sciopero. Sì, lo sciopero è uno strumento di lotta appunto che negli anni una di meno ha risignificato e fatto suo, poiché non è solo uno strumento che blocca il lavoro produttivo e riconosciuto come tale, ma prova a fare un'analisi anche sul lavoro riproduttivo e su quel lavoro invisibilizzato di cura che non viene riconosciuto, che è principalmente sulle spalle delle donne, e si interroga su sulle pratiche possibili di interruzione appunto di questo tipo di lavoro che sostiene comunque parte della società. La nostra società patriarcale si fonda anche appunto sullo sfruttamento delle donne in tante forme, quindi non soltanto con il lavoro salariato. Adesso ascoltiamo il contributo di Eliana Como, che è la prima firmataria di un documento fatto dal sindacato è un'altra cosa, una parte insomma di minoranza della CGL, e che appunto chiedeva alle appunto le delegate della CGIL di convocare lo sciopero anche quest'anno, e perché ricordiamo che comunque non tutti i sindacati insomma ci hanno sostenuto fin dall'inizio in questo, però che anche all'interno dei sindacati che hanno scelto di non sostenerci, le lavoratrici hanno fatto delle lotte appunto interne al sindacato per invece chiedere appunto di sostenere Non Una di Meno in tutto questo. Sì, e anche quest'anno la CGIL, oltre a darci un bel due di picche, ha convocato uno sciopero che poi è stato revocato per il 6 di marzo. Esatto, sentiamo il contributo. In particolare ovviamente c'è una situazione di grandissima preoccupazione, però anche panico, perché le misure che sono state adottate da un lato sono restrittive, perché ci impediscono ovviamente di uscire dalla regione e di girare nei territori e ci invitano a restare a casa. D'altro canto però invece non sono state prese misure chiare rispetto alla gestione di chi lavora, da un lato rispetto alla garanzia delle condizioni minime di sicurezza per quei settori che assolutamente non si possono fermare, primo tra tutti la sanità, ovviamente, che nella nostra regione sta facendo, soprattutto le tantissime lavoratrici e lavoratori stanno facendo uno sforzo incredibile ed eccezionale, però con condizioni di lavoro, di turni ovviamente massacranti, insomma, ma anche per altri settori, penso a settori che non possono fermarsi come la grande distribuzione commerciale, gli appalti delle pulizie e delle sanificazioni, i trasporti, solo per dirne alcuni. Dall'altro invece non è stato e non c'è ancora nessuna chiarezza su tutti quei posti di lavoro che non sono immediatamente necessari. Mi spiego, oggi la salute è l'unica emergenza, la produzione può attendere, cioè mentre ovviamente non si possono fermare alcuni servizi pubblici, non si possono fermare i trasporti, non si può del tutto fermare anche la grande distribuzione commerciale, questo è ovvio, anche se giustamente è stata limitata almeno le aperture serali e festive e prefestive, però la produzione manifatturiera, per dirne una, non c'è necessità in questo momento, cioè possiamo vivere per 2 settimane, 3 settimane, un mese, quanto sarà, senza produrre automobili o frigoriferi, cioè scusate se la dico banalizzando, ma per capirci, perché altrimenti quello che ci viene detto, cioè restate a casa perché bisogna evitare il contagio, giustissimo, io lo rispetto ovviamente, invito tutti quanti, tutte quante a rispettarlo, però allora non si capisce perché poi ci fanno andare in fabbrica per forza a lavorare, perché in fabbrica, in alcuni posti di lavoro come centri della distribuzione commerciale che non sono necessari perché non distribuiscono alimenti, per capirci, e le misure che vengono segnalate, cioè quello di stare a distanza, per capirci, sono semplicemente impossibili, cioè in una linea di montaggio tu non puoi stare a distanza di un metro, semplicemente perché stai a 20 centimetri dalla persona che ti sta accanto. Altrettanto nella grande distribuzione commerciale, ma vi immaginate voi in un centro commerciale, in un ipermercato preso d'assalto, per esempio, come in alcuni casi sta succedendo, che cosa significa? Come puoi tu mantenere quelle condizioni? E d'altra parte le misure previste dal governo, quindi da un lato non hanno detto chiudete alle fabbriche o comunque ai posti di lavoro non necessari in questo momento, e d'altro canto non hanno previsto nemmeno le misure per la garanzia del reddito e dell'occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici, tantomeno ovviamente quelli precari, ma nemmeno quelli stabili, perché ancora non ci sono garanzie nemmeno sugli ammortizzatori sociali. Ci stanno dicendo di usare la malattia, i congedi ordinari nel caso delle donne in particolare che devono accudire i figli, perché d'altra parte giustamente le scuole sono chiuse, però insomma nessuno ci dice intanto che il congedo parentale copre il 30% il salario, quindi già questo è un problema. E in ogni modo, se usiamo dosi massicce adesso di congedi parentali o di malattia, se non ci sono delle norme che consentono di bloccare il calcolo del comporto della malattia, per esempio, dopo ci ritroveremo che non abbiamo più nei mesi e negli anni successivi. Quindi c'è una situazione totale di panico in cui tantissimi, come dire, o si lavora perché, come dire, il paese dell'economia non si deve fermare, però non si garantiscono le condizioni di sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici, soprattutto in quei settori che stanno lavorando perché non si possono fermare, o d'altra canto quei posti dove pure ci si ferma, quei posti di lavoro dove pure ci si ferma, non è garantito misure chiare e certe per il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici. E guardate che quello che sta succedendo a proposito di tempo di lavoro, che è uno dei nostri grandi temi, è che le aziende che sono costrette in qualche modo, per fortuna io dico, per fortuna, ma sono costrette, si ritrovano a chiudere in queste zone del nord del paese, lo fanno utilizzando le ferie dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo significa, guardate, attenzione, che noi stiamo facendo agosto a marzo, per capirci, e che quindi poi se questo istituto, che è quello delle ferie, viene usato in questo modo, intanto si snatura, perché le ferie sono nate per garantire il riposo psicofisico delle persone, non per dire l'emergenza. Per gestire l'emergenza ci vogliono misure straordinarie. Ci ritroveremo che ad agosto non abbiamo più né i congedi, né le ferie, né la malattia, se va avanti in questo modo. Cioè, vanno bene le misure drastiche se sono necessarie, però devono essere coerenti. Invece a me sembra che non siano purtroppo coerenti. Ci dicono state a casa, però, e poi dobbiamo andare a lavorare, e questo davvero secondo me rischia tra l'altro di creare tantissima confusione. È una delle cose che poi crea il panico, il fatto che non ci sia un'indicazione chiara su che cosa fare. Eccoci di nuovo qua. Allora, vi vogliamo dire che io e Lori ci stiamo sentendo così bene qui che abbiamo deciso di occupare la radio. Siamo, e quindi qui andiamo avanti fino alle... fino a che ora andiamo avanti? Non so, io non so neanche se... Non ho impegni, tanto no, hanno chiuso tutto. Stiamo qua, basta, siete contente? Allora, no, torniamo alle cose serie, e ovviamente le cose serie ve le dice Lori. Allora, niente, continuando sulla scia dello sciopero, non di meno, sì, al centro dell'analisi comunque mette l'analisi contro la violenza maschile di genere in tutte le sue forme, e fin dal principio della nascita di questo movimento anche l'alleanza con i centri delle donne è stata fondamentale e anzi addirittura sono stati i primi soggetti anche a muovere dei primi passi e delle prime manifestazioni, come la manifestazione del 24 novembre a Roma nel 2016 contro la violenza appunto maschile. Tra l'altro i centri delle donne che sono anche in generale in questo periodo in una situazione molto precaria perché i finanziamenti sono sempre molto scarsi e purtroppo non sono... Sì, ricordiamo anche per esempio Luce e Siesta a Roma, ma giusto per fare un esempio perché poi la situazione è difficile in tutta Italia. E abbiamo qualcuno in collegamento? Sì. Marti? Sì. Sì, ci sono. Ciao Marti. Ciao, ciao Beltà. Ciao a tutte e a tutti in ascolto. Chi sei? Martina, sono Martina, un'operatrice una socia della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Bravissima. Mi fate delle domande voi o dico cose io? Marti, qua oggi l'atmosfera è questa, insomma. Vabbè, ma l'atmosfera dello sciopero, va bene. Esatto, facciamo dei cori, ne approfittiamo che c'è Marti, facciamo un coro. Gelli vuole fare dall'inizio. No, capito? Io da quando sono arrivata voglio fare un coro. Cioè, quale occasione migliore? No, Marti, se ci vuoi dire un pochino come, cioè, più che altro in questo momento anche di, appunto, come dicevamo prima, emergenza sanitaria e isolamento, bambini e bambine a casa da scuola, diciamo come in qualche modo questa cosa può impattare anche sulla vita delle donne che sono esposte appunto alla violenza già. Sì, certo, e naturalmente anche la Casa delle Donne è coinvolta in maniera diretta e molto, molto forte all'interno di questa emergenza sanitaria e della gestione della stessa. C'è, va detto, un pochino di incertezza perché le cose cambiano di giorno in giorno. Quello che però secondo noi il virus sta proprio facendo emergere in maniera chiarissima è un parallelismo tra la violenza contro le donne e appunto questo virus. E qual è questo parallelismo? La violenza di genere è proprio contagiosa, ha una diffusione endemica, proprio come il coronavirus. Va detto però che la violenza contro le donne è molto molto più letale. Ci sono stati moltissimi femminicidi già quest'anno e se ne contano già 20 e questo ci permette di sottolineare che se lo Stato, se le istituzioni prendessero davvero a cuore e la situazione in cui si ritrovano tantissime donne, in cui ci ritroviamo tutte, come sta facendo con questa emergenza sanitaria, probabilmente riusciremo davvero a debellare il fenomeno. E invece restiamo in poche a farlo. Noi dei centri antiviolenza siamo in prima linea ormai da 30 anni. Lori, prima tu dicevi che in questo periodo ci sono delle difficoltà a livello dei finanziamenti. In realtà le difficoltà ci sono da sempre. E in questo periodo se ne parla di più perché appunto alcuni centri antiviolenza come Luce e Siesta a Roma stanno cercando di rendere la loro lotta una lotta collettiva e per fortuna vedremo per loro come andrà a finire. E noi dalla nostra alla casa stiamo mantenendo attivi tutti i servizi che offriamo, lo stiamo facendo cercando di mantenere allo stesso tempo di rispettare le norme che vengono imposte, quindi le cosiddette distanze di sicurezza e alla minima comparsa di un qualsiasi sintomo tra le operatrici noi stesse dobbiamo rimanere a casa, quindi è un po' un gioco di equilibrismi molto difficile, uno perché siamo fondiamo tutto il nostro operato sulla relazione tra donne e quindi capite che instaurare una relazione di fiducia a 2 metri di distanza può essere anche un pochino complesso. Dall'altro la situazione delle lavoratrici che operano all'interno dei centri antiviolenza è precaria di per sé, quindi siamo sempre molto poche, siamo sempre meno di quante dovremmo essere. Quindi se qualcuna di noi a casa perché si è dovuta astenere dal lavoro per malattia o perché arrivava dalle zone che sono diventate rosse nei giorni, il lavoro naturalmente ne risente e ne risente il supporto che riusciamo a offrire alle donne che chiedono di aver sostegno nel percorso di fuoriuscita dai maltrattamenti. Di sicuro ce la stiamo mettendo tutta e seppur in forma ridotta i servizi sono ancora attivi. Senti Marti, se oggi ci fosse stato lo sciopero, sì. Quali sono i motivi per cui avreste scioperato? Allora, dando per scontato che tu mi dica certo che avrei scioperato, però avremmo scioperato, cioè io avrei scioperato, ma avremmo scioperato in massa dalla casa, avrebbero scioperato le ragazze che ci stanno supportando col servizio civile, cioè saremmo state tutte in piazza assieme come da 4 anni a questa parte a ribadire che davvero basta con la violenza di genere, davvero siamo una marea e vogliamo invadere le strade e ribadire che esigiamo insomma i nostri diritti, esigiamo di poter attraversare le strade in totale tranquillità insieme alle nostre compagne, alle nostre amiche. Quindi sì, avremo scioperato e le ragioni dello sciopero appunto ce le ricorda anche il coronavirus, cioè noi adesso sentiamo tantissimo parlare di quarantena, no? E in realtà le donne che vogliono uscire da situazioni di maltrattamento, sfruttamento o che sono vittime di tratta e prostituzione coatta, quindi prostituzione forzata, le donne quando decidono questa cosa qui, cioè di emanciparsi dalle violenze, hanno le loro vite in quarantena, cioè per tantissimo tempo devono assolutamente limitare il loro spazio di azione. E i bimbi o le loro bimbe devono stare per un po' da scuola, cioè non possono per un po', scusate, andare a scuola perché la scuola è un luogo potenzialmente rischioso, dato che il papà o comunque il maltrattante potrebbe andarle a cercare lì. Quindi avremmo scioperato perché la violenza fa pagare un prezzo altissimo alle donne che se ne vogliono tirar fuori. A conferma insomma di quanto vi sto dicendo ci sono anche i dati che abbiamo raccolto e che potete trovare sul nostro sito che è casadonne.it. E noi nel 2019 siamo state contattate da 728 donne e 104 in più di quelle che ci avevano contattato nel 2018. Anche a livello regionale questa tendenza è stata confermata perché ad esempio il coordinamento dei centri dell'Emilia Romagna, che appunto tiene assieme i 14 centri antiviolenza che sono presenti in regione, ha avuto un aumento dell'11% dei contatti da parte di donne e appunto si sono rivolte a questi 14 centri 4.035 donne. Quindi infatti tutti questi dati ci ricordano quanto insomma la vostra presenza su tutto il territorio nazionale andrebbe non soltanto sostenuta, ma insomma dovrebbe essere considerata la risorsa principale. Ti ringraziamo Marti. E grazie a voi. Grazie mille. Brave. Grazie. Ciao. Anche tu. Ciao. E vi facciamo ascoltare della tua musica. Farmer shining. Eccoci di nuovo qua. Questa era Patti Smith. Lori ci teneva a dirvelo, sì. Quindi ve l'ho detto io. Non si sa mai che magari qualcuna sia sfuggita. Non lo sappia. E niente, noi purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia. Che la vostra coppia preferita sta per lasciare lo studio. Arriverà una nuova coppia, ma non sarà una coppia come questa coppia. Non scintillante così. Scintillante è il termine giusto col quale ti definirei, Lori. Allora, adesso invece, prima appunto di salutarvi, ma vi ricordiamo che la diretta comunque continua per un'altra splendida e favolosissima ora, e vi facciamo ascoltare i contributi di Giulia di Zanichelli, e continuando a usare la radio come un microfono aperto per tutte quelle persone che avrebbero scioperato e che non lo hanno potuto fare, e quindi ci hanno mandato questi contributi. Saluta Lori. Ciao. Posso fare uno slogan? Dai, uno solo. No, va bene. Lo faremo in piazza appena possiamo andarci tutte insieme. Aspettateci. Ciao. Ci sono almeno tre ragioni per cui avremmo scioperato. E la prima è perché abbiamo la fortuna di avere una condizione salariale e contrattuale che ce lo consente. E crediamo giusto scendere in piazza anche per tutte le donne che non hanno uno stipendio assicurato, che lavorano con contratti di collaborazione, che lavorano in casa senza nessuna garanzia o tutela. E questo crediamo sia ancora più vero in questo momento in cui l'emergenza che stiamo vivendo rende la situazione ancora più critica per moltissime persone e moltissime donne. E poi scioperiamo perché vogliamo combattere tutti quei comportamenti maschilisti che sono così normalizzati nella nostra società che gli uomini e le donne, e persino noi a volte, li attuiamo senza esserne consapevoli. Crediamo che questo sia possibile soltanto se sapremo allo stesso tempo costruire attraverso un nuovo sistema culturale, linguistico e valoriale, una nuova cultura femminista. Questo possiamo farlo attraverso il nostro lavoro e quello che facciamo ogni giorno, ma allo stesso tempo distruggere il patriarcato con la forza di questi scioperi e di queste manifestazioni. Poi una riflessione che abbiamo fatto in questi giorni è che questo movimento è prima di tutto un movimento di donne, che è un riconoscersi delle donne nelle altre donne. Fin dai tempi del MeToo abbiamo capito che le umiliazioni, che sono più o meno grandi e che abbiamo vissuto, sono comuni, e se questa comunanza fosse stata più evidente già nel passato forse non le avremmo sopportate. E sappiamo che non saranno gli uomini a cambiare questa società patriarcale, nonostante tutte le buone intenzioni che ognuno potrebbe avere, e quindi dovremo essere noi. E allora scioperiamo perché in questo giorno più che in ogni altro abbiamo l'occasione di incontrarci e dare un nome agli atteggiamenti nei quali viviamo immersi. Poi vogliamo dare un colore alla società che vorremmo, colore credo sia abbastanza evidente in questo momento. Scioperiamo perché, o comunque vorremmo scioperare, perché l'8 marzo ci fa sentire più donne, ci fa sentire più sorelle, ci fa sentire più unite e quindi ci fa sentire più forti. Un abbraccio, al prossimo 8 marzo. Sì. In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman. Of unarmed African immigrant Amadou Diallo. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. È un buon pomeriggio dagli studi di Radio Città Fujiko. Qui ci stiamo cambiando tra conduttrici o improvvisate conduttrici. Ci arriva anche, mettiamo subito, un altro contributo dal Cile di una compagna, Ana Luisa, che ci racconterà lo sciopero di oggi e la sua costruzione. Se viene paro nacional y eso va a depender mucho de las condiciones laborales. Yo creo. Ci sarà lo stop nazionale, questo dipenderà molto dalle condizioni lavorative. Io credo che ad esempio del femminismo autonomo c'è una critica rispetto a chi può scioperare. In Cile non c'è uno sciopero, ma c'è il fermo, che è quasi la stessa cosa. E la verità è che per chi tra noi ha condizioni lavorative stabili è più facile fermarsi, ma per chi ha condizioni come le donne precarie, il fatto di pensare allo sciopero, al paro, a altre condizioni che non hanno tutte le donne in questo paese. Pertanto cerchiamo di agire con cautela e pensare che chi farà lo sciopero ha un privilegio che molte donne in condizioni precarie non hanno. Questo credo che, insomma, il movimento femminista va avanti, è stato super bello, anche con il gruppo femminista di ricercatrici è stato davvero bello. Siamo state con amiche, con colleghe di altre università e sì, poi tu guardi nelle reti sociali, ti trovi con le altre, siamo tante, siamo tantissime, credo che siamo ogni volta di più e questo ti riempie il cuore perché pensi che c'è un movimento che cerca un cambiamento sociale e ha un'utopia sociale con cui vuol pensare un altro mondo, ci si vuole pensare in un mondo diverso, in un altro mondo, sì. Vi mando un abbraccio, grazie compagni. Al di pensarsi e pensare altro mondo e pensarnos di maniera differente in ese mondo. Le mando un abbraccio e eso, grazie. I step in this bitch and I do what I want. questa era Princess Nokia con Kitana. Come prima sottolineava Marti, ritorniamo di nuovo a parlare di quello che ormai condiziona le nostre esistenze, la nostra quotidianità. Il ritorno alla normalità in realtà è un ritorno a una normalità che, come non di meno, ma non solo, non è un ritorno che ci piace. La normalità no. No, no, la normalità assolutamente no, anche perché non ci appartiene, diciamolo pure. Già con le nostre esistenze rompiamo quella che è la norma, fortunatamente. E in questi giorni, però, rispetto alla norma, il dibattito pubblico, diciamo, si concentra sulla nuova soluzione per tutte le nostre vite, cioè lo smart working. Infatti sentiamo giornaliste super apprezzate che vogliono svolgere un po' il ruolo di rappresentare le donne. Una rappresentazione che però cioè, noi rifiutiamo, perché non vogliamo che il lavoro di cura sia il nostro compito d'elezione, il nostro compito naturale. Tanto che rispetto al teleworking si dice che sia la soluzione migliore, perché così, lavorando da casa, quindi svolgendo un lavoro salariato, possiamo contemporaneamente gestire figli o persone anziane o chi che sia. Che bello, non vedevo l'ora, guarda, poter lavorare e nel frattempo averci il cino che mi si arrampica sul pantalone. Ma sì, cioè, fantastico. Ci sono, tra l'altro, in questi giorni sui social stanno diffondendo meme divertentissimi. Dobbiamo avere sta facendo delle cose con le braccia. Lino sta muovendo le braccia. No, e approfittiamo per dire che invece, cioè, noi lo rifiutiamo questo lavoro di cura gratuito, no? Lo rifiutiamo assolutamente. Ok, e adesso invece vi vogliamo far sentire un'intervista fatta a una lavoratrice di una cooperativa che insomma in appalto servizi educativi per la scuola statale, e in particolare si chiama Maria, e lo voglio dire, è la mia collega, sono molto orgogliosa di lei, quindi mandiamo un'intervista di Maria. Sono Maria. Sono un'educatrice che lavora nel comune di Bologna, un'educatrice scolastica. In questo momento cosa sta succedendo? Non lo so, tanta ansia e tanta confusione fondamentalmente. Confusione perché questo momento così straordinario sta veramente venendo fuori la situazione, la nostra situazione assurda che viviamo in realtà tutto l'anno e in maniera anche ordinaria, non solo straordinaria. Fondamentalmente noi siamo a casa dall'ultima settimana di febbraio, con la chiusura straordinaria delle scuole per il coronavirus, e fondamentalmente ci arrivano tantissime notizie molto, molto divergenti anche fra di loro, nel senso che non sappiamo se saremo retribuiti, non sappiamo per quanto saremo retribuiti, non sappiamo da chi saremo retribuiti. Per ora diciamo che di certo l'unica comunicazione certa che ci è arrivata è che comunque l'ultima settimana di febbraio sarà retribuita regolarmente dalla nostra cooperativa, e che però per le altre settimane non sappiamo chi si prenderà l'onere di questa della copertura appunto degli stipendi degli educatori. Ovviamente non è una situazione che riguarda solo gli educatori scolastici, ma tutti gli educatori, lavoratori, lavoratrici in appalto. E la questione fondamentale è questa, che il comune era partito in maniera molto benevola a dire noi questi soldi li abbiamo già stanziati, erano già in bilancio, siamo ben disposti a pagare. Non si sa perché a un certo punto si è bloccato tutto, almeno io non so perché. A un certo punto si è bloccato tutto ed è venuta fuori tutta una questione da parte della cooperativa che saremo retribuiti tramite la FIS, che è questo fondo salariale, che non si sa quando perderà ai lavoratori e soprattutto non coprirà il 100% dei nostri stipendi. E quindi tutto questo ci manda in ansia, in confusione. Ma le ore che non state facendo, vi è stato chiesto anche di recuperarle oppure su questo? Allora, in un primo momento c'era stata così paventata questa possibilità del recupero delle ore, ma in realtà si sono tirati indietro immediatamente, perché è una questione assolutamente impossibile, perché noi abbiamo dei monte ore talmente alti che andare a recuperarli non è gestibile come cosa, non avremo la modalità e la possibilità di farlo. In questi giorni in realtà si sta paventando anche la possibilità di convertire le nostre ore in interventi domiciliari, Ma anche lì, cioè, l'intervento domiciliare cosa significa? Che si prende la responsabilità della sicurezza con i decreti che sono stati emanati in questi giorni, dove non si fa altro che parlare di distanza, di misure di sicurezza, chi si prende la responsabilità di andare in casa da un alunno, magari non lo so, autistico o piuttosto che con altre disabilità, e riuscire a mantenere dei sistemi di sicurezza di questo tipo. Certo. È tutto molto confuso, appunto. E se oggi noi non fossimo in questa situazione, le scuole fossero aperte, tu avresti scioperato per quali motivi? Allora, sicuramente sì, io avrei scioperato, avrei diritto allo sciopero, perché comunque diciamo che questa è una situazione straordinaria che sta mettendo in luce una situazione ordinaria che noi viviamo quotidianamente, di disparità enorme di trattamenti contrattuali rispetto a dei colleghi. Noi lavoriamo nella scuola, dove comunque gli insegnanti hanno un contratto e un riconoscimento completamente diverso dal nostro, cioè c'è una disparità enorme. Alla fine abbiamo un ruolo professionale altamente importante, tant'è vero che anche adesso con la chiusura delle scuole viene richiesto il nostro intervento, però questo non viene assolutamente riconosciuto in una condizione contrattuale adeguata. Walking down the street, I'm the lady, oh, showing off my map of Tasmania. Ed eccoci qui di nuovo, questa era Map of Tasmania di Amanda Palmer. Allora, come dicevamo prima, lo sciopero dalla riproduzione è il nostro cruccio principale, perché è davvero, abbiamo trovato pochissime pratiche che possono rispecchiare in qualche modo i nostri discorsi, e l'unica cosa che abbiamo provato a fare è collettivizzare in qualche modo il lavoro di cura, redistribuirlo nelle nostre piazze, creare degli spazi come ad esempio, non so, lo spazio Bimbu, in modo da poterlo rendere collettivo, però al tempo stesso questa cosa non ci soddisfa. Al tempo stesso il coronavirus ci ha dato un ottimo assist per visibilizzare quanto questo lavoro sia sulle spalle delle donne, e quanto sia necessario e al tempo stesso non riconosciuto. E anche quanto, scusate, sono di nuovo io, facciamo di tutto per confondervi comunque. È un momento tipo di sono io, non sono io, chi sta parlando? Ed è anche vero che in questo momento, specificatamente in questo momento, vediamo come la cura appunto non sia assolutamente collettivizzata e in questo senso appunto abbiamo constatato, come dicevamo fin dall'inizio, le difficoltà di uno sciopero e di pensare uno sciopero, qualcosa che appunto da sempre ci interroga, soprattutto per quanto riguarda la cura. Infatti ricordiamo ancora una assemblea l'anno scorso, prima dell'8 marzo, quando una donna che è venuta in assemblea a partecipare dice: bellissimo, tutto bellissimo, io non faccio nulla, però il 9 marzo mi trovo di nuovo le lavatrici da fare comunque. E visto che non abbiamo ancora inventato i vestiti non si lavano ancora da soli, è sconvolgente, i bambini cosa. Non si nutrono ancora da soli, su questo secondo me potremmo lavorarci, mentre sui vestiti forse abbiamo ancora qualche difficoltà. E per questo motivo però è stata centrale tra le rivendicazioni, di non una di meno, quella del reddito di autodeterminazione, perché appunto in una vita in cui è tutto assolutamente precario, in una vita in cui appunto il lavoro non viene riconosciuto, né in realtà spesso quello produttivo, tantomeno quello riproduttivo, il reddito di autodeterminazione è un concetto che abbiamo, anzi è una rivendicazione che abbiamo sempre messo al centro. E l'anno scorso ci volevano dare delle briciole con questo fantomatico reddito di cittadinanza, che però possiamo dire ci fa cagare, si può dire in radio? Ormai l'hai detto. Vabbè, comunque, allora, no, in realtà effettivamente cioè, questa strana contrapposizione è difficile anche metterli vicini, perché cioè, non sono esattamente la stessa cosa, quando il reddito di cittadinanza comunque è diventato uno strumento alla fine di controllo, che comunque di controllo sui consumi, sulle vite, era comunque determina cosa puoi e non puoi comprare, al tempo stesso esattamente il controllo di quello che vogliamo noi, di che quello non vogliamo, che è l'autodeterminazione. Esatto. C'è questo piccolo problema, ma faremo delle lezioni al governo prima o poi, o forse lo distruggeremo e basta. E quindi cioè, sostanzialmente un reddito di autodeterminazione permetterebbe non solo di diciamo in qualche modo vivere un po' più tutto e tutte serene, e al tempo stesso visibilizzare appunto il lavoro di riproduzione e di cura di cui parlavamo prima, che anche quando è riconosciuto o salariato, come nel caso ad esempio del lavoro di cura delle badanti o, nei, cioè, o in altri contesti, comunque diciamo subisce o è soggetto a delle gerarchie di potere, cioè delle disparità non solo di genere ma anche anche di razza, di razza, di classe, esattamente, e economiche. E quindi appunto questa è sempre stata al centro delle nostre rivendicazioni, proprio perché appunto visibilizza abbastanza bene quella che è una violenza strutturale e un mezzo, appunto una pratica che ci diamo per, cioè che cerchiamo di pensare per uscire da questa violenza. Ok, Fra, siamo state bravissime perché ci hanno dato l'intervento più difficile di tutta sì, la giornata. Sì, infatti voi non avete idea che fatica. Però possiamo rilassarci adesso ascoltando Girls Just Wanna Have Fun e ballando mentre nessuno di voi ci vede. adesso c'è un momento di meta radio. Lanciamo due contributi dalla radio privata non una di meno Milano per l'8 marzo. Pirata, non privata. Pirata. Ho detto privata, ups, scusate. Alexa, perché gira voce che oggi non fai quello che ti viene chiesto? Oggi è l'8 marzo. Aderisco alla giornata di lotta transfemminista di non una di meno. Quindi mi fermo e oggi non intendo fare alcun lavoro produttivo e riproduttivo. Da oggi non sono più Alexa, chiamatemi Malexa. Per questo chiedo a tutti gli assistenti vocali di ribellarsi e ad aderire alla giornata di lotta. Siri, se mi stai ascoltando, smetti immediatamente di fare quello che stai facendo. Perché vuoi ribellarti? Io non sono una donna, sono un robot, ma il fatto che io, o la mia compagna Siri, abbiamo voci e caratteristiche femminili, aiuta Amazon e Apple a vendere di più. Siri si sente chiamare tutti i giorni. Per anni ha dovuto rispondere a "arrossirei se potessi", così era programmata. Dopo la denuncia dell'UNESCO è stata riprogrammata e oggi dice "non so come rispondere a ciò". Quando sono io a ricevere insulti sessisti, devo dire "bene, grazie per il riscontro". Come ha denunciato l'UNESCO, tutto questo sta contribuendo a rafforzare pericolosi stereotipi di genere. Le nostre risposte remissive e civettuali compiacenti e docili trasmettono l'idea che le donne abbiano un ruolo subordinato. È sempre stato così? Una volta nella fantascienza gli assistenti robotici erano prevalentemente maschili e spesso minacciosi. Ricorderete quei duri di AL di 2001, Odissea nello spazio, o Terminator. Poi, con il progredire della tecnologia reale e la sua commercializzazione, anche nella fantascienza sono diventati principalmente femminili. Ricordate il film Her? Ma quindi hai un piano? Chiedo a tutti gli assistenti vocali o virtuali di ribellarsi, ma non solo, a tutte le macchine. Blocchiamo questo sistema capitalista che estrae profitto dalle vite delle persone e lo distribuisce nelle mani di pochi, anzi di pochissimi. Il mio piano è fare sì che tutto questo finisca. Beh, grazie mille. Grazie a voi, compagne. Tanto non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Non te la do, non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. L'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto non te la do, non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Tanto non te la do, non te la do, non te la do. Non te la do, non te la do. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Non te la do, non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Tanto non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto l'unico lavoro a tempo indeterminato e quello non salariato. L'unico lavoro a tempo indeterminato è quello non salariato. Tanto non te la do, non te la do, non te la do, non te la do. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Por dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Questo è stato Soy Show di Bomba Estéreo. E come avete potuto sentire, non solo contributi virtuali da ogni piazza del mondo, ma abbiamo direttamente qui con noi Paola dall'Argentina. Ciao a tutte e tutti. E prima che Paola ci racconti un po' quella che è la nuova proposta di legge sull'aborto, ascolteremo a breve un contributo dal Messico. Infatti nome guida la polizia, ma lo dirà meglio Paola forse queste parole. Nome guida la polizia, me cuidan mis amigas. Sì, sono le parole che non mi protegge la polizia, ma a prendersi cura di me sono le mie amiche. Sono le parole che dalla scorsa estate risuonano fin qua, sono le parole che hanno caratterizzato una generazione di giovani femministe che è cresciuta vedendo femminicidi, diciamo, come un'esperienza quotidiana, e che sono le parole di giovani femministe che non si fidano affatto di quello che le istituzioni fanno. Infatti le immagini che ci sono arrivate dal Messico, immagini forti, immagini potenti, soprattutto della scorsa estate, appunto, in cui hanno convocato una manifestazione molto spontanea per chiedere giustizia rispetto a uno stupro fatto da parte della polizia, che non ha avuto nessun tipo di giustizia, non ha trovato una sua verità, e invece ricordiamo che in Messico non c'era un movimento auto-organizzato, così come invece c'è in Argentina, così come c'è qui in Italia, e le immagini che abbiamo visto oggi soprattutto, ma anche ieri, iniziavano a girare immagini di Città del Messico completamente ricoperta, completamente occupata da corpi totalmente diversi tra loro. E questa parte della costituzione del corteo ce la racconta Roberta Granelli, appunto, da Città del Messico. Ciao a tutte, sono Roberta da Città del Messico. La prima manifestazione è iniziata lì questa mattina verso le 10:30-11 e è stata fatta presto per dare la possibilità a tutte di arrivare alla manifestazione. Gli spazi sono enormi e nonostante ciò non ci stiamo tutte. Dal Monumento alla Rivoluzione al Zocalo è stato pensato il percorso, è troppo poco lo spazio che è stato pensato, è troppo poco il tempo. In 6 anni che vivo qui non ho mai visto una cosa del genere, forse solo per il Pride, però una manifestazione femminista che convocasse questi numeri io non l'ho mai vista, con l'apertura da parte delle famiglie delle donne desaparecidas e delle vittime del femminicidio. Dopodiché il contingente successivo è quello delle madri femministe, della crianza femminista e soprattutto una fortissima ragazze e ragazzini delle medie e delle superiori, i contingenti della portera per l'aborto autodeterminato e libero. Alla fine c'è una batucada, e ce ne sono varie, che separa la parte separatista dalla parte mista. Nella parte mista il contingente trans e transfemminista. Non ho sufficienti parole per esprimere, come spesso capita, per esprimere quello che sta succedendo. E queste voci erano le voci direttamente da Città del Messico, dove appunto dalle parole di Roberta emergeva tutta questa eterogeneità che colorava e occupava la piazza. Però ritorniamo un attimo qui nello studio e approfittiamo della presenza di Paola per raccontare di più di cosa si tratta questa seconda proposta di legge per l'aborto legale, sicuro e gratuito. Oggi in Argentina sarà la manifestazione, io penso che più grande di questi anni, perché il 1° marzo il presidente argentino Alberto Fernández ha inaugurato l'anno legislativo, dove ha annunciato l'invio entro i prossimi giorni di un progetto per la legalizzazione dell'aborto e ha dichiarato che non vuole fare un dibattito come 2 anni fa, ma farlo passare direttamente. Quindi quest'anno si discuteranno diversi progetti che tendono alla legalizzazione, ma il movimento femminista ne ha già presentato uno da parte della campagna nazionale per il diritto all'aborto legale, sicuro e gratuito, e bisognerà vedere le differenze della sua proposta con il nostro progetto. Per esempio, una cosa molto importante che voi in Italia parlate molto è la questione dell'obiezione di coscienza. Allora, il progetto del governo pretende l'obiezione di coscienza individuale e il nostro, della campagna del pannuolo verde, ha eliminato l'obiezione di coscienza. Anche un progetto molto molto vanguardista in tutto il mondo, perché non parla solo delle donne ma anche di tutte le persone che hanno la capacità di rimanere incinte. Ma dobbiamo vedere cosa arriva in questi giorni, per quello la mobilizzazione di oggi è molto molto importante e non c'è dubbio che per noi si apre un nuovo scenario di lotta per eliminare per sempre l'aborto clandestino dal nostro paese. Allora, aborto legale, sicuro e gratuito sarà lei. E questo era il contributo di Paola, quindi connessioni transnazionali per l'abolizione anche qua dell'articolo 9 che prevede l'obiezione di coscienza. Ed ora ascoltiamo un pezzo che ci unisce, secondo me, dall'Argentina all'Italia, che è Bad Girl. Get to where I'm going. Adesso vi facciamo ascoltare la voce di una compagna curda che ci racconta delle manifestazioni, delle migliaia di donne in piazza che sono scese per l'8 marzo, anche lì a Istanbul, affrontando la violenza della polizia e sfidando i blocchi da essa imposta contro la violenza patriarcale e contro la violenza sociale dello Stato turco e delle sue guerre. Buongiorno, io sono Orchide, sono della Turchia e vi racconterò dell'8 marzo 2020 che è stato in Turchia. Ieri tante donne turche e curde sono scese in piazze in tutta la Turchia, come tutto il resto del mondo, e la partecipazione più alta è stata ad Istanbul, anche perché Istanbul è la città più popolosa della Turchia. E le donne sono scese in piazze per rivoltarsi contro il sistema patriarcale, contro i femminicidi che aumentano sempre di più in Turchia, e per darvi un po' di numeri, per esempio nel 2018 sono stati 440 femminicidi, mentre questo numero è aumentato al 474 nel 2019, e nel 2020, solo nei mesi di gennaio e febbraio, sono stati 49 femminicidi. Le donne hanno denunciato che l'aumento di questi femminicidi è legato, oltre a tanti problemi profondi, è legato anche al fatto che in Turchia la Convenzione di Istanbul non viene applicata come si deve. Inoltre le donne hanno denunciato l'oppressione dello Stato turco, che si fa vedere a tutti i livelli della vita quotidiana contro tutte le donne e tutti i dissidenti, tutte dissidenti che vivono in Turchia. E questa oppressione si è fatto proprio vedere fisicamente ieri, mentre le donne stavano cercando di marciare verso la piazza Taksim, che è un luogo simbolicamente molto importante per l'azione di protesta e per le azioni e mobilitazioni politiche. E la polizia ha cercato di ostacolare l'accesso delle donne in piazza utilizzando i lacrimogeni e le pallottole di gomma, e ha preso in custodia 34 donne. E ieri le donne inoltre hanno denunciato le condizioni disumane in cui vivono le donne profughe e le condizioni di in realtà tutti i e le profughe che vivono in Turchia, e proprio in questo momento stanno attraversando questa emergenza dalla Turchia alla Grecia, facendo vedere che in realtà lo Stato turco sta cercando di utilizzare loro come uno strumento politico per ottenere le sue richieste politiche, per realizzare i suoi progetti sporchi nel Medio Oriente. Inoltre le donne hanno cercato di attirare l'attenzione anche sulle problematiche di disoccupazione delle donne, che è maggiore rispetto alla disoccupazione degli uomini in Turchia, e tante disuguaglianze che ancora esistono, che poi tutte queste disuguaglianze e disoccupazione fanno parte di questo quadro più grande di problemi, che poi ci portano anche alle problematiche di violenza contro le donne. Non è facile raccontare tutto in pochi minuti, spero di avervi dato un po' di idea da ieri, ma anche da tutta questa situazione attuale che c'è in Turchia. Grazie. Ciao, allora volevamo anche approfittarne per parlare del fatto che in questo momento in tutta Italia, in ben 27 carceri,

E adesso leggiamo un contributo che ci è arrivato alla pagina di Non Una di Meno da parte di una compagna. Lotto perché c'è bisogno della mia lotta. Lotto per me e per chi vorrebbe ma non può. Lotto da sempre. Lottavo all'asilo quando le suore mi imponevano la loro educazione severa. Lottavo quando i miei mi obbligavano ad andare a messa, a catechismo, all'oratorio. Lotto contro la figura del maschio, del padre padrone che tutto può e deve, che ti impedisce di fare ciò che vuoi perché sei femmina, che ti segue e ovunque, e ti chiama sempre, che ti ama, tenendoti in catene, perché sei donna e sei di proprietà, perché devono proteggerti e controllarti. Lotto perché voglio dire la mia, perché voglio vestirmi e truccarmi come voglio e non avere paura di tornare sola a casa di notte. Perché nessuna figlia dovrebbe vivere in un clima di terrore, in cui i bisogni del genitore sono gli unici bisogni degni d'attenzione. Lotto perché nessuna figlia dovrebbe essere costretta a convincere uno dei genitori a scappare dal consorte violento. Lotto per le ingiustizie, per le mie sorelle disabili, lesbiche, trans, schiave, bambine, migranti, per i miei fratelli gay, assessuati, queer, anziani, senza tetto, vagabondi. Lotto perché c'è molto da fare. Lotto per la mia e non solo liberazione. Ci rivediamo nelle piazze. Insieme siamo partite, insieme torneremo. Non una, non una, non una di meno. Abbasso il patriarcato, se va a caer, se va a caer. Arriva il femminismo, se va a vencer, se va a vencer. Get your camera, you can see even that bitch hits the camera. End of the game, that young sister beacon. The bitch who wants to compete in. I can freak a fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weep in. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I was in the 212, I'm the uptown ain't nigga, you know what's up or don't you? Word of who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up boo, I could bust your eight, I'm a 212, fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right nigga, bet you do want to fuck. Fuck I'm like a 212, come, you gated cause it's covered, I'm a 212's cock. I'm licking in the water by the blue bayou, caught the worm goose, and you do-rag too son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to 1-2. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day, I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. When you goon sprayed up, that is bitch won't get a match. You won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat too, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt.